America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Tokyo. Mario Platero, Christine Lagarde ha inaugurato poche ore fa l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale. Alcune migliaia di delegati di 188 paesi sono riuniti nei grandi saloni del Centro Internazionale di Tokyo per partecipare appunto al consesso di finanzieri, economisti, banchieri, policy makers, ministri, governatori delle banche centrali. Il messaggio è un messaggio che abbiamo ascoltato anche negli ultimi giorni, un messaggio relativamente preoccupato per ciò che riguarda il potenziale di crescita mondiale. Ma non vorrei prolungarmi troppo su questioni di cui abbiamo già parlato negli ultimi giorni, vorrei dedicare invece la giornata di oggi al grande evento americano che ho seguito qui direttamente da Tokyo, e cioè al dibattito fra i due candidati alla vicepresidenza per la corsa alla Casa Bianca del 2012, Joe Biden, compagno di corsa di Barack Obama, e Paul Ryan, compagno di corsa di Mitt Romney. It makes us more weak. It projects weakness, and when we look weak, our adversaries are much more willing to test us. They're more brazen in their attacks, and our allies are less willing to trust us. With all due respect, that's a bunch of malarkey. Ecco, avete sentito una battuta così piuttosto colorita da parte di Biden, rivolgendosi al suo concorrente, gli dice: "Ah, that's a bunch of malachi", beh, come dire, stai raccontando un sacco di balle. Ecco, la reazione così piuttosto colorita di Biden, che sappiamo essere un personaggio che spesso fa delle gaffe, si lascia andare a dire quello che pensa senza riflettere troppo se poi è appropriato o meno, in questo caso era sulla difensiva, perché Paul Ryan lo aveva attaccato in apertura di dibattito su Bengasi, sull'assassinio dell'ambasciatore a Tripoli. Ecco, la polemica è che, numero uno, non c'erano dei Marines a proteggere l'ambasciatore, nonostante lui stesso li avesse richiesti. Numero due, l'amministrazione ha reagito tardi. Numero tre, all'inizio l'amministrazione Obama diceva che non si trattava di un attentato terroristico, ma bensì di una dimostrazione in reazione al famoso video che insultava Maometto. E Ryan è partito subito all'attacco, ha detto: "Non capisco perché ci sono volute 2-3 settimane per poter capire come davvero fossero andate le cose". Biden si è difeso, diceva: "No, abbiamo avuto le informazioni dall'intelligence, non erano sicuri di come davvero fossero andate le cose". Ecco, comunque un punto debole, è stato il punto più debole, direi, di questo dibattito per Joe Biden. Ho aperto su questo perché il Medio Oriente e la politica estera hanno dominato, devo dire, il dibattito di ieri, e i due candidati si sono dimostrati straordinariamente preparati, perché hanno ingaggiato nella notte una battaglia fiera, interessante, aggressiva, e hanno dato prova entrambi, come vi dicevo, di grande eloquenza. Come è andata a finire? Beh, secondo me, ma non secondo me, un po' secondo tutti, hanno chiuso questo loro dibattito con un pareggio complessivo dal punto di vista dello scontro diretto. Hanno sorpreso entrambi. Dal punto di vista politico, però, secondo me il risultato è più a vantaggio di Biden. Perché? Beh, perché con la sua performance così decisa, preparata, puntuale, quello che è successo è che ha rivitalizzato la base del Partito Democratico, ha rimesso in carreggiata la campagna di Barack Obama, che, come ricorderete, aveva deragliato malamente dopo la cattiva performance del presidente nel primo dibattito con Mitt Romney. Per il grande pubblico c'è stata la sorpresa, devo dire, di Ryan, perché questo giovane ha solo 42 anni, apparso sicuro di sé, in grado di sfoggiare dal punto di vista dell'eloquenza più ritmo, rapidità, sicurezza. Biden ha commesso un errore. I know, no, this is Mr. Vice President, I know you're under a lot of duress to make up for lost ground. Biden che ride in modo abbastanza sgangherato. Cosa succedeva? Che durante il dibattito, mentre Ryan parlava, le telecamere inquadravano anche Biden, e Biden scuoteva la testa, faceva queste risatine derisorie, di sufficienza nei confronti di quel che diceva Ryan. Dopodiché Biden ha cominciato anche a intervenire mentre parlava Ryan, interrompendolo. Nel brevissimo c'è stato un minimo di efficacia, perché con questi suoi interventi così un po' petulanti, Biden è riuscito a distrarre Ryan, il quale si vedeva ogni tanto perdeva un po' il filo del discorso. Nel medio termine, però, questa cosa non ha favorito Biden, perché la gente non ama vedere questi colpi, diciamo, sotto la cintura. E soprattutto, che cosa è successo? Che i repubblicani hanno messo insieme subito un video, uno spot pubblicitario che hanno messo immediatamente in onda, in cui si vede da una parte Biden che ride sempre e dall'altra invece Ryan molto serio che sta affrontando i grandi problemi, le grandi sfide del paese, e si vedono queste risate continue di Joe Biden. I think the vice president very well knows that sometimes the words don't come out of your mouth the right way. But I always say what I mean. Biden però è riuscito a recuperare quando ha ricordato la gaffe di Mitt Romney, quella in cui menzionava che il 47% degli americani è totalmente apatico, non si dà da fare. Ryan è stato molto pronto, evidentemente l'aveva studiata questa cosa e ha osservato, però Joe, tu sai benissimo che cosa significa quando certe parole scappano. Un riferimento ovviamente alle gaffe continue di Joe Biden, che più volte ha imbarazzato tra l'altro proprio Barack Obama e l'amministrazione. Devo dire, anche lì Joe Biden è stato prontissimo, perché ha improvvisato una risposta alla battuta, una controbattuta, e ha detto: beh, qualche volta le cose mi scappano, dice, ma io sono sempre molto sincero anche quando mi scappano, come del resto, dice, era sincero Romney quando ha detto quello che ha detto. There, you can cut tax rates by 20% and still preserve these important preferences for middle class taxpayers. Not mathematically possible. It is mathematically possible. It's been done before. It's precisely what we're proposing. It has never been done before. It's been done a couple of times, actually. It has never been Jack done Kennedy before. Lowered tax rates, increased growth. Ronald Reagan. Now you're Jack Kennedy. Ronald Reagan. Altro grande tema centrale, quello delle tasse, e su questo Biden ha fatto meglio di Ryan, ha avuto un momento in cui è riuscito ad articolare il suo pensiero molto chiaramente e a spiegare come alla fine la classe media sarà penalizzata da quella che è la scelta dei repubblicani di tenere invariate, anzi di diminuire le tasse per i più ricchi e di lasciare sulla carta anche invariate le tasse per i più poveri. Però, dice Biden, alla fine sappiatelo, e guardava diritto nella telecamera, che questa promessa è un finto sconto, perché poi alla fine chi dovrà pagare dal punto di vista di aumenti della spesa sanitaria, da un punto di vista di aumenti generalizzati, sarete voi. Complessivamente vi dicevo un dibattito molto interessante, a questo punto grande attesa, perché se da una parte i democratici si sentono rivitalizzati, dall'altra non credo che questo dibattito cambierà dal punto di vista dei punti la situazione, e dunque la palla torna nel campo dei numeri uno di Romney e di Obama, che si scontreranno martedì prossimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, torniamo a Tokyo, torniamo alla globalizzazione, una globalizzazione che non è solo economica ma anche culturale. Infatti, mentre in America spopola il Gangnam Style del rapper coreano Psy, in testa alla classifica dei brani più popolari in Giappone, in questi giorni troviamo un successo americano, Carly Rae Jepsen and Old City, Good Time. Woke up on the right side of the bed, what's up with this Prince song inside my head, hands up if you're down to get down tonight. It's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time. Da Tokyo è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.